Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. E così, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, un'altra settimana si chiude, ma soprattutto una giornata si chiude, quindi questo è il momento dell'appuntamento con Effetto Note. Per fare un riepilogo, un quadro piuttosto chiaro, esauriente, insomma, almeno dei fatti principali della giornata, poi con ospiti in diretta per approfondire diversi argomenti. Ma diciamo che la giornata di oggi, per quanto riguarda naturalmente noi, l'Italia, è stata dominata da tutta una serie di fibrillazioni politiche, tanto per cambiare, che secondo il Presidente del Consiglio Letta dovrebbero rendere il governo più forte, ma poi capiremo man mano anche appunto con gli ospiti. Quindi, come sempre, partiamo prima di tutto con i titoli dei fatti principali. Presidente del Consiglio Letta, appunto, a proposito delle varie fibrillazioni nei partiti della maggioranza, commenta: sono abituato all'instabilità, parlerò poi con Monti e con Fassina. L'appello di Napolitano, che difende la manovra e dice ai giovani imprenditori: serve uno sforzo comune per dare fiducia al paese. Tanto la legge di stabilità è sempre un po' fonte di discordia e la leader della CGIL Camusso annuncia: siamo pronti allo sciopero. Nel frattempo Scelta Civica va in pezzi, il professore Monti del partito dice: non mi interessa più. Casini commenta: Monti è rissoso e inaccettabile, le sue accuse sono ridicole e si va verso un nuovo gruppo di popolari. Poi c'è Alitalia, nelle casse di Alitalia sono entrati 130 milioni di euro fra versamenti dei soci nell'ambito dell'aumento di capitale da 300 milioni di euro e le garanzie delle banche, quanto si legge in una nota della compagnia, ed è confermata la garanzia condizionata di Poste Italiane per 75 milioni di euro. Il calcio: all'Olimpico si gioca il big match, così come si dice, Roma-Napoli, in tribuna c'è Maradona che intanto gioca la sua partita col fisco italiano. E cominciamo allora questi titoli a raccontarli un po' per volta. Partiamo allora dal Presidente del Consiglio Letta, che difende la legge di stabilità in un'intervista del TG1 e a proposito delle fibrillazioni interne, tutti questi mal di pancia dei partiti della maggioranza, si dice sicuro che il governo ne uscirà più forte. Ma quei complimenti non è che sono importanti per me, sono importanti perché creano un clima di fiducia nel mondo, nei mercati, tra gli investitori, gli imprenditori. La gente deve avere fiducia nell'Italia. Forse alle volte siamo noi italiani che siamo un po' autolesionisti, perché è evidente, ci fossero stati più soldi, tutti saremmo stati contenti di mettere più soldi a disposizione, però dalla crisi si esce un passo per volta. Penso e credo che in questo momento sia molto importante ai critici dire forse era meglio un'altra legge di stabilità come quella degli anni scorsi, con tagli alla sanità, con tagli al sociale, con aumenti di tasse. Beh, questa è una legge di stabilità che per la prima volta dopo molti anni non tocca la sanità, mette degli investimenti sociali e soprattutto riduce le tasse. Ormai sono abituato a convivere con l'instabilità, ma lo faccio perché voglio semplicemente che ci sia il governo funzionante che riesce ad affrontare le questioni, le tante questioni che abbiamo davanti. Quindi sì, parlerò con Monti, parlerò con Fassina sicuramente, ma sono convinto che saranno questioni che ci consentiranno di essere poi più forti. Vede, in questi giorni io sono molto contento del fatto che il Parlamento, la Camera dei Deputati, ha approvato il progetto di legge del governo sulla fine del finanziamento pubblico dei partiti, il passaggio a un sistema in cui c'è il 2 per mille e sono i cittadini che decidono. Sembrava impossibile, però è successo e io rivendico il fatto che si possono fare riforme che iniettano trasparenza e rendono, spero, la politica più credibile. E dal Presidente del Consiglio al Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che lancia questo appello ai giovani imprenditori di Confindustria e dice: serve un coraggio responsabile per ridare fiducia al Paese. Così ha detto. È un vero e proprio appello ad avere fiducia nel Paese, nella sua capacità di uscire dalla crisi, quello che il Capo dello Stato lancia in occasione dei lavori dei giovani imprenditori di Confindustria. Lo sforzo deve coinvolgere tutti, sottolinea Giorgio Napolitano. Bisogna in primo luogo che tutte le forze sociali, culturali, politiche del Paese sappiano di avere questo dovere di dare fiducia. La crescita dunque come obiettivo per chi fa impresa, per chi lavora, per coloro che amministrano il paese, ma non a tutti i costi, fa capire il Presidente della Repubblica. Serve coraggio ma responsabile, dice il Capo dello Stato intervistato dal direttore del Sole 24 Ore Roberto Napolitano. Coraggio facile è quello del dire: bisogna fare di più, non bisogna temere di fare di più. Tutto questo però è molto retorico e bisogna stare attenti a evitare che coraggio troppo facile non significhi poi coraggio poco responsabile. Quanto alle misure per ridurre la pressione fiscale su imprese e lavoro, spiega ancora il Presidente della Repubblica, il problema è di vedere nell'insieme su quali risorse possiamo contare seriamente senza inventarci delle coperture fasulle. Possiamo noi sottovalutare il fatto che l'Italia sia uscita dalla situazione in cui era di infrazione per deficit eccessivo? Abbiamo superato momenti molto più complessi e drammatici di questo attuale, dice ancora Napolitano. Supereremo anche questo per ridare all'Italia quella capacità anche di sviluppo industriale e non solo economico. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli. Questo è Giorgio Napolitano che ha è stato intervistato dal nostro direttore del Sole 24 Ore, Roberto Napolitano, e ha detto tutte le forze sociali, culturali, politiche del paese sappiano di avere il dovere di dare fiducia di avere fiducia in un'Italia che torni a crescere. Questa è l'esortazione di Napolitano, che dice abbiamo passato momenti peggiori, appunto, invita a cercare la crescita mantenendo attenzione per le finanze pubbliche, e l'intervista integrale poi la potete trovare sul sito di Radio 24, www.radio24.it. I sindacati però, per quanto riguarda la legge di stabilità, restano critici e la CGIL è pronta allo sciopero. Nonostante le parole del capo dello Stato, forze politiche e parti sociali continuano a chiedere profonde modifiche della legge di stabilità. Nella maggioranza i più critici restano i lealisti del Popolo delle Libertà. Nel Partito Democratico invece i renziani oggi chiedono di concentrare le detrazioni IRPEF sui redditi più bassi. Contro la manovra i sindacati confederali non escludono uno sciopero generale. La protesta potrebbe essere decisa già la prossima settimana, annuncia la numero uno della CGIL, Musso, ospite di Mix 24. Mi pare che stia ormai un orientamento unitario per farlo. È importante farlo unitario, però. Lunedì dovremmo deciderlo. A bocciare la manovra sono anche le imprese. Il presidente dei giovani di Confindustria, Morelli, chiede al governo di fare di più su costo del lavoro e cuneo fiscale. Invito a rivedere quelle che sono soprattutto le impostazioni per quanto riguarda il taglio, così come c'era stato prospettato, molto più deciso invece che deve essere fatto sulla tassazione sui redditi da lavoro e da impresa, perché questa è un'assoluta priorità. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E adesso di nuovo a Napoli per una nuova truffa, un'ennesima truffa nella sanità che coinvolge l'ASL 1 di Napoli e un centro fisioterapico della provincia partenopea. Aveva i conti così in disordine da non riuscire a dimostrare se una fattura era già stata pagata o no, così saldava più volte le stesse bollette. Vittima di se stessa, diciamo così, è l'ASL 1 di Napoli. Sfruttando l'anarchia contabile, dirigenti e funzionari della stessa struttura sanitaria della Regione Campania hanno causato un danno di almeno 32 milioni di euro al comparto sanitario regionale. Il colonnello Alessandro Langella, della Guardia di Finanza di Napoli. La contabilità era inesistente e questo non consentiva all'ente ospedaliero di verificare se una prestazione venisse pagata due o più volte. Pertanto di fronte alla stessa fattura venivano erogati più pagamenti, e questo addirittura anche in caso di ingiunzioni di pagamento, di fronte alle quali l'ente ospedaliero non era in grado di difendersi e quindi la prestazione veniva pagata più volte. Sempre in Campania, in provincia di Napoli, un'altra truffa sanitaria riguarda il centro fisioterapico Fisiodomus, chiuso da tempo. Secondo gli inquirenti avrebbe messo fatture per prestazioni fisioterapiche mai avvenute a favore di deputati della Camera. Paolo Panceri, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ancora la cronaca con la sentenza di primo grado per riciclaggio sul caso Fastweb, che fa ancora discutere. È stato infatti assolto dopo un anno di carcerazione preventiva proprio il fondatore della società, Silvio Scaglia, che oggi era ospite a Effetto Giorno. È una battaglia che va indubbiamente fatta, ma non ha bisogno di simboli come me. Non ci succede, succede veramente a tante persone, succede con troppa frequenza, e soprattutto la possibilità di difendersi in quei momenti lì sono ridottissime. Non molto spesso bisogna avere, anzi sempre bisogna avere la forza di subire un intero processo che dura anni, e insomma, nel mio caso mi posso ritenere fortunato che poi la soluzione di innocenza sia stata riconosciuta non mentre sono ancora in vita. Viene in mente il caso di Tortora, che è andato in modo totalmente diverso. E dopo le polemiche di fuoco di questi giorni sul caso Prib, che si torna a parlare di nazisti, perché il Tribunale Militare di Roma ha condannato l'ergastolo Alfred Stork, che è un ex militare tedesco novantenne accusato di aver partecipato alla fucilazione di almeno 117 ufficiali italiani a Cefalonia nel settembre del 1943. Finalmente la prima vera condanna di un soldato tedesco per la strage di ufficiali italiani a Cefalonia. Questo è il commento di Marcella De Negri, figlia di uno dei militari uccisi alla Casetta Rossa, dove venne fucilato l'intero stato maggiore della divisione Acqui. Il riferimento è alla condanna all'ergastolo dell'ex caporale tedesco novantenne Alfred Stork, il più anziano dei superstiti dell'eccidio di Cefalonia. Si è infatti finalmente concluso il processo di primo grado dopo 70 anni di rimpalli di responsabilità. Per i fatti di Cefalonia, solo il processo di Norimberga inflisse 12 anni al generale Hubert Lanz, il quale ne scontò unicamente 3. La condanna per la strage di Cefalonia arriva fatalmente dopo il videotestamento del boia delle Fosse Ardeatine Erich Priebke, morto a 100 anni una settimana fa, in cui l'ex ufficiale nazista, la cui bara si troverebbe ancora all'aeroporto di Pratica di Mare in attesa di una destinazione certa, come ha fatto anche Stork, giustifica la strage perché costretto ad obbedire ad un ordine superiore. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 ore. E ci sono nuove indagini nei confronti di ex militari tedeschi, ma anche italiani, responsabili di crimini di guerra compiuti in Grecia e in Albania durante la Seconda Guerra Mondiale. Sono state avviate queste indagini dalla Procura Militare di Roma, lo conferma lo stesso procuratore militare Marco De Paolis, limitandosi a dire che non ci sono allo stato indagati. Adesso spostiamoci all'estero con le polemiche invece che ci sono in Francia, dove un esponente del Fronte Nazionale equipara il ministro della Giustizia a una scimmia e il partito la sospende. Una ministra della Repubblica paragonata a una scimmia. Questa volta però non accade in Italia, ma in Francia. L'autrice è Anne-Sophie Leclerc, esponente di Fronte Nazionale, il partito di estrema destra di Marine Le Pen, e candidata alle prossime elezioni municipali. Destinataria dell'insulto è il ministro della Giustizia, Christian Taubira. L'episodio è diventato di dominio pubblico quando il canale France 2 ha chiesto spiegazione a Leclerc riguardo a un fotomontaggio apparso sulla sua pagina Facebook, dove l'immagine della ministra era affiancata a quella di una scimmietta. Qu'est-ce que veut dire ce fotomontage exactement? Tout est dit entre les mots. Di fronte alle domande della giornalista, Leclerc dapprima è tornata sui suoi passi. La scimmia resta un animale, ha detto, un nero è un essere umano. Per poi però aggiungere, preferisco vedere la ministra fra i rami di un albero piuttosto che al governo. Da qui l'ira del partito, che ha deciso di sospenderla dalla candidatura alle elezioni comunali. E intanto il fotomontaggio è sparito da Facebook. Giorgia Witzeman, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E dopo l'appello di Napoletano sul sovraffollamento delle carceri, si continua a parlare di carceri, si danno i numeri, 64.564 sono i detenuti rispetto a 47.599 posti. Questa è l'ultima fotografia delle carceri italiane che è stata scattata dalla Guardia Sigilli ieri in Commissione Giustizia della Camera. 23.000 sono i detenuti per spaccio di droga, cifre su cui la politica si interroga mentre discute dell'ipotesi di un provvedimento appunto di clemenza. Con un indulto come quello del 2006 uscirebbero 18.000 persone, anticipa Radio 24 il capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Giovanni Tamburino, intervistato da Raffaella Calandra. Entro l'anno noi avremo una consegna di circa 3.000 posti. Se ad esempio ci fosse un indulto come l'ultimo, cioè come quello del 2006, avete fatto un calcolo di quante persone uscirebbero? Un indulto di 2 anni avrebbe effetti, naturalmente sempre che fosse un indulto analogo all'ultimo, per circa 14.000 persone. Se fosse come l'ultimo che era di 3? E aggiungeremo altre 4.000. Ora il cinema, in un faro si rifugiano un prete spretato, il cognato cornuto, la sorella innamorata di una donna, e succede tutto questo in una piccola impresa meridionale, che è il film di Rocco Papaleo con Riccardo Scamarcio e Barbara Bobulova, da questo fine settimana in sala. Per Papaleo è una fuga dai pregiudizi del sud, ma non solo. Sentiamo il microfono di Marta Cagnola. Il sud è un luogo che offre la possibilità di un racconto un po' più viscerale, no? Un po' più già di per sé, cioè non c'è bisogno di impiantare particolari drammi perché già li contiene nella sua definizione. Quindi per il momento si adatta moltissimo alle storie che voglio raccontare. E mi dà anche la possibilità di sentirmi a casa, diciamo. Se nel film mio precedente avevo proprio immaginato una specie di sliding doors della mia vita, questa volta invece abbiamo cercato di inventare una storia che comunque potesse permettere permettermi di ancora di più approfondire alcune questioni che elaboro ma che ancora non ho realmente risolto. E per chiudere questa prima parte c'è il calcio, all'Olimpico si sta giocando Roma-Napoli, big match della Serie A, si dice così Dario Ricci, big match. Bravissima, bravissima Roberta, io potrei aggiungere come facevano i cronisti di una volta, partita maschia, perché siamo al 30° del primo tempo, 0-0 tra Roma e Napoli, l'argentino buono, il Napoli ce l'ha in tribuna perché c'è Maradona sugli spalti, ma non c'è invece il Pepita Higuain, bloccato da un infortunio al centro dell'attacco, sostituito da Pandev. Pochi istanti fa si è fatto male anche Francesco Totti in un'azione difensiva. Nonostante la partita maschia si è fatto male. Sì, proprio in virtù della partita maschia, perché è stato un contrasto, in realtà... Sembra diciamo, spingendomi nel tecnico, sembra un fastidio al retto femorale destro, praticamente al retro della coscia. Stanno provando a massaggiarlo, a fasciarlo, ma si sta scaldando anche Borriello. Finora meglio la Roma, Roberta, in un paio di occasioni vicino al vantaggio, il 15° con un sinistro in diagonale di Cervigno da 6-7 metri e al lato di poco, e poi al 21° con un tiro un destro dai 30 metri di Pjanic che ha sfiorato la traversa. Adesso Totti fasciato, prova a rientrare e non sembra al meglio delle condizioni, certo, però manca Higuain, dovesse perdere anche Totti, il big match sarebbe un po' meno big. Attenzione al Napoli, niente da fare, il tiro di Calleion è finito praticamente dal limite dell'area piccola, è finito in fallo laterale, quindi diciamo non riuscitissimo. Ci aggiorniamo dopo allora Dario Ricci con questa partita maschia, intanto vi ricordo che c'è la pagina Facebook di Effetto Note, che è effettonote_Roberta Giordano, questo per riconoscerla, e già ci sono i vostri commenti sui partiti che implodono questi partiti. Cosa sta succedendo? Potete continuare a commentare, noi ci sentiamo dopo la viabilità. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano con voi, tra pochissimo allora parliamo dei partiti, della situazione, con tutti questi mal di pancia che ci sono, soprattutto all'interno della maggioranza, ma prima vi ricordo come sempre i titoli dei fatti principali. Il Presidente del Consiglio Letta, a proposito appunto di questi mal di pancia, di queste fibrillazioni dei partiti della maggioranza, commenta: sono abituato all'instabilità, parlerò con Monti, parlerò con Fassina. E c'è l'appello di Napolitano che difende la manovra e dice ai giovani imprenditori: serve uno sforzo comune per dare fiducia al Paese. Intanto la legge di stabilità continua a creare malumori, la leader della CGIL Camusso annuncia: siamo pronti allo sciopero. E Scelta Civica va in pezzi, il professore Monti dice: del partito non mi interessa più. Casini commenta: Monti è rissoso, è inaccettabile questa cosa, le sue accuse sono ridicole e pare si vada verso un nuovo gruppo di popolari. Calcio, l'Olimpico si gioca il big match a Roma-Napoli, in tribuna c'è Maradona che intanto gioca anche la sua partita col fisco italiano. E partiamo col primo ospite. Bentornato, bentrovato Massimo Franco. Salve, buonasera a voi. Ciao Massimo, commentatore, inviato politico del Corriere della Sera. Ora a te volevo chiedere, come chiedo anche agli ascoltatori con la pagina Facebook di Effetto Notte, che cosa sta succedendo? È una specie di preconizzazione di Grillo del Movimento 5 Stelle che i partiti sarebbero autoimplosi, si sarebbero sgretolati, cosa che però in qualche modo sta succedendo anche a lui con tutti i dissidenti. Giovanni Favia proprio qualche giorno fa qui a Effetto Notte aveva detto: ci sono almeno 15 che vogliono staccarsi, oltre a quelli come lui già espulso e altri che se ne sono andati. Insomma, nel PDL succede quel che succede, questa guerra tra correnti pare appena nate. Monti che si è dimesso, Fassina nel PD che minaccia le dimissioni, più ci sono tutte le questioni congressuali, e il Movimento 5 Stelle, dicevo che anche lui ha i suoi guai. Che succede quindi, Massimo? Ma semplicemente stiamo assistendo ad una lunga transizione convulsa che nasce dalla fine in fondo del berlusconismo. Il declino di Berlusconi, che è un uomo che ha plasmato non soltanto la sua maggioranza di centrodestra ma in qualche modo anche l'opposizione, e nel momento in cui sta declinando e tramontando dallo scenario politico mette in qualche modo in fibrillazione anche tutti gli altri partiti, quindi stiamo assistendo semplicemente a qualcosa che in fondo era prevedibile, e cioè una scomposizione dei partiti che probabilmente le forze politiche cercheranno di arginare ma che difficilmente si riuscirà a frenare del tutto. L'unica cosa che c'è da augurarsi è che questa scomposizione non venga scaricata sul governo, perché in fondo quando Enrico Letta dice sono abituato all'instabilità, dice una cosa vera, e dice però una cosa che può diventare pericolosa, nel senso che bisogna aspettarsi che i partiti tendano di volta in volta a scaricare su Palazzo Chigi tensioni. Ecco, lui però è ottimista, no Massimo, lui dice diventeremo più forti, ma è un modo di autoaugurarsela questa cosa? Tu dici che invece non può dire diversamente, credo, nel senso che fino adesso si è visto che nel momento del maggior tentativo di spallata, che è stato quello del 2 ottobre sulla fiducia, Letta è sopravvissuto e anche in modo convincente è riuscito in questo senso a spaccare il PDL. E credo che però non sia finita, nel senso che vedremo altri tentativi o altre disperate polemiche che cercheranno poi di trovare una soluzione attaccando il governo. Quindi penso che Letta più va avanti e più certamente si rafforza, ma il problema è di arrivare almeno alla fine dell'anno, perché poi scatterebbe l'idea che l'Italia presieda e abbia la presidenza del Consiglio europeo, e quindi forse i tentativi scemerebbero, ma credo che per adesso le cose siano ancora un po' in bilico. Ma Massimo, quindi tu dicevi una specie di effetto domino con la fine del berlusconismo, siccome lui aveva plasmato di sé il partito ma anche la politica italiana in genere, avendo delle difficoltà lui e il suo partito, succede così a effetto domino anche per gli altri? Sì, io credo che ci sia un problema che non riguarda poi Berlusconi, è il sintomo di quello che sta succedendo, perché secondo me il tramonto di Berlusconi adesso è stato rivelato da questa crisi, ma dura da molto più tempo, secondo me da prima ancora che ci fosse il governo Monti, quando il centrodestra perse le elezioni amministrative nella primavera del 2011, quindi la cosa viene da più lontano. L'impressione è che per adesso si stia creando un vuoto di rappresentanza che neanche il partito di Beppe è riuscito fino adesso a riempire, perché i tassi di astensione in Italia stanno diventando patologici, quindi abbiamo un elettorato che è in cerca di una nuova rappresentanza, ma ho l'impressione che invece i partiti ritengano di poter continuare loro a rappresentare il paese, mentre invece ho la sensazione che si stia esaurendo la funzione di alcuni di loro, almeno come li abbiamo conosciuti finora, perché il blocco sociale che rappresentano non c'è più. Ma non c'è forse sempre questa forza centripeta, nel senso proprio di centro, no? Anche per quelli che forse usciranno da Scelta Civica, si parla di un possibile centro con Alfano e gli altri. C'è un ascoltatore sull'effetto notte che scrive, Luca De Santis, moriremo democristiani, che è una cosa che si ripete spesso, come se questo paese alla fine è una specie di Araba Fenice, la democrazia cristiana. Ma il problema è che stiamo morendo bipolaristi, questo è il problema di questa fase. Noi abbiamo vissuto 20 anni di bipolarismo che non ha funzionato e che ha portato l'Italia nelle condizioni in cui è adesso. E più che chiedersi moriremo democristiani in senso polemico, bisognerebbe chiedersi che cosa bisogna fare per cercare di risalire, e certamente il bipolarismo oggi non c'è più, non c'è più intanto nei numeri parlamentari, perché il Parlamento è diviso in tre tronconi, Grillo è uno dei tre. Secondo, perché questa legge elettorale non ha prodotto stabilità ma instabilità, e quindi bisogna chiedersi come mai. E terzo, perché evidentemente dietro questo bipolarismo che tutti hanno preso come modello di modernità, in realtà c'è stata soprattutto grande rissosità, e questa rissosità è servita soprattutto a non fare le cose, a non risolvere i problemi. Allora bisogna capire se in questi anni non si sia formata una classe dirigente che in qualche modo ha fatto della cultura della rissa la sua stella polare. Se è così, bisogna sapere che questa cultura della rissa oggi non aiuta l'Italia, la sta affossando, e quindi forse dovremmo prendere esempio dalla Germania, che bistrattiamo tanto, nella quale una Merkel che ha vinto nettamente le elezioni, non avendo i numeri parlamentari, sta creando un governo di grande coalizione. Cos'è, la terza Quindi volta, il realismo, la seconda volta? Ecco, il realismo dovrebbe portarci a ragionare con più freddezza e con più senso di responsabilità. Massimo, prima di lasciarci, brevissimamente, un tuo commento su quello che sta succedendo in Scelta Civica in specifico, al di là di questa analisi più generale. Ma mi sembra che sia un problema che nasce onestamente da un risultato elettorale molto deludente e da una crisi di leadership di Monti che si salda, credo, con una grande delusione da parte dell'UDC di Pier Ferdinando Casini. In fondo era qualcosa che si stava preparando, era in incubazione da mesi. Certamente lo scarto di Monti pone un problema a tutto il movimento, questo è un movimento nato nel segno di Monti. Bisogna vedere adesso questi spezzoni dove finiranno. Grazie Massimo Franco. Grazie a voi. Ciao Massimo, buona serata, buon fine settimana. E c'è in collegamento l'onorevole Andrea Romano. Buonasera Romano. Buonasera a voi. Di Scelta Civica, al quale chiedo solo di avere un po' di pazienza, che abbiamo una pausa alla pubblicità, di cui naturalmente lei sa che viviamo. Poi ricorderò i titoli e poi parliamo di Scelta Civica in, possiamo dire, in prima persona. Tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Roberto Giordano sempre con voi, tra pochissimo parliamo con Andrea Romano di Scelta Civica, ma come sempre ogni interruzione riprendiamo con i titoli dei fatti più importanti. A partire dal Presidente del Consiglio Letta che, a proposito delle varie fibrillazioni nei partiti della maggioranza, commenta: sono abituato all'instabilità, ne usciremo più forti, parlerò con Monti, parlerò con Fassina. E poi c'è l'appello di Napolitano, che non solo difende la manovra, ma dice ai giovani imprenditori a Napoli serve uno sforzo comune per dare fiducia al Paese. E sulla legge di stabilità, la leader della CGIL Camusso, sempre più critica, annuncia: siamo pronti allo sciopero. Scelta Civica che va in pezzi, con il professore Monti che dice del partito non mi interessa più e Casini che commenta: Monti è rissoso, è inaccettabile. E poi il calcio all'Olimpico, si sta giocando il big match Roma-Napoli in tribuna Maradona, che intanto gioca la sua partita col fisco italiano. E come vi dicevo, parliamo con Andrea Romano. Romano, grazie per la pazienza. Intanto ha sentito anche le previsioni, questa perturbazione atlantica riguarda anche Scelta Civica, mi sembra di capire. Sì, assolutamente, ma insomma siamo in buona compagnia, mi pare, perché le fibrillazioni in altri partiti sono all'ordine del giorno. Sì, sì. Però Scelta Civica l'affronteremo ordinatamente nei prossimi giorni. Le sembra che sia possibile ordinatamente? Perché già, diciamo, il leader Monti ha proprio sbattuto la porta, mi sembra, no? E gli altri, Mauro, chi è Mauro, e gli 11 traditori, insomma, come diceva ieri Monti, che stanno convergendo verso un nuovo centro dei popolari italiani con Alfano, è vero questo? Guardi, più che un nuovo centro direi il vecchio centrodestra, perché insomma di nuovo centro non mi pare che ci sia granché in quello che vedo accadere nel centrodestra, e sinceramente non credo che il destino di Scelta Civica debba essere quello di essere diversamente berlusconiani. Ci sono già molti che pretendono di essere diversamente berlusconiani, però io credo che il gesto di Monti, che è un gesto molto vigoroso, sia anche un richiamo alla responsabilità verso coloro che sono stati eletti sotto il simbolo di Scelta Civica. Monti in questo senso ha usato parole molto forti nei confronti di coloro, e ha fatto il nome di Mario Mauro, che, come dire, eletti in Scelta Civica e anche nominati al governo per Scelta Civica, forse lavoravano per un partito che non era Scelta Civica. Hanno trovato una collocazione, perché lei, Andrea Romano, lei è fedelissimo a Monti. Guardi, in io, come dire, sono leale, nel senso che sono leale nei confronti di una persona, di un progetto politico che ha ricevuto il voto di 3 milioni di italiani e che è nato non per essere una costola del PDL, ma per offrire agli italiani un'offerta politica diversa. E questo è quello che stiamo cercando di fare. Dopodiché, sentivo adesso le battute di Casini, secondo cui Monti sarebbe rissoso. Io sinceramente lezioni di comportamento, di moralità da Pier Ferdinando Casini non mi sento di prenderle, né tantomeno mi sento di prenderle da... né tantomeno credo che se le senta di prendere Mario Monti, che ricordiamo, come dire, ricordiamo in che situazione era l'Italia nel novembre del 2011, no? La copertina del Sole 20, la prima pagina del Sole 24 ore, fate presto. Ecco, quella era la situazione nella quale la politica italiana, compreso Pier Ferdinando Casini, aveva lasciato l'Italia. In quel caso Monti seppe prendersi quella responsabilità. Dobbiamo sempre ricordarci di cosa è accaduto non 20 anni fa, ma un anno e mezzo fa. Andrea Romano, lei tiene per quale squadra, mi scusi? Ma io, guardi, le dicevo, sono leale nei confronti di Monti e del progetto di Scelta Civica. E invece nel calcio? Nel calcio sono livornese. No, e le dico perché pare che ci sia un gol, dobbiamo aggiornarci un attimo, abbia pazienza. Dario Ricci, cos'è successo tra Roma e Napoli? C'è il gol, non del Livorno, che non è protagonista questa sera, ma di Pjanic della Roma. Roma in vantaggio per 1-0, finito da pochissimo il primo tempo. La rete è arrivata al quarto di recupero, un calcio di punizione dai 20 metri, tirato in maniera impareggiabile e imparabile, direi, da Pjanic, un destro a giro che ha battuto Reina, a dire che prima le migliori occasioni dopo un buon inizio della Roma erano state proprio per il Napoli, Roberta, perché al 34esimo Pandev si è presentato tu per tu davanti all'ex di turno De Sanctis, che è riuscito a deviare il pallone e poi De Rossi ha salvato praticamente sulla linea, e al 40esimo c'è stato il palo di Lorenzo Insigne, anche in questo caso a tu per tu col portiere giallorosso. Una Roma che ha trovato il gol del vantaggio ma ha perso, come praticamente abbiamo raccontato in diretta, al 33esimo per infortunio il suo capitano Francesco Totti, un infortunio muscolare, sostituito da Borriello. Finito il primo tempo all'Olimpico, Roma 1, Napoli 0, decide per ora la punizione di Miralem Pjanic. Grazie Dario Ricci, grazie ancora una volta Andrea Romano, onorevole, lei capisce. Sarà contento mio figlio, che è uno sfegatato romanista. Ah, bene, bene, così abbiamo aggiornato anche lui. Come si chiama suo figlio? Guido. Quindi Romano, adesso il prossimo futuro immediato, diciamo, di Scelta Civica qual è? Intanto si riuniranno i parlamentari di Scelta Civica nei primi giorni della prossima settimana per decidere cosa fare. Io credo che la cosa più ragionevole sarebbe proseguire sulla strada verso il congresso, è la cosa che gli italiani e anche i nostri elettori capirebbero di più, ovvero una forza politica che discute del proprio futuro, che continua la trasformazione in partito politico dal lista elettorale com'era, quindi sul territorio, aggregando tanta gente che è disponibile a lavorare con noi, facendo un congresso di qui a 2 mesi, incaricando un gruppo di lavoro di coordinare questo lavoro congressuale. E poi naturalmente decideremo cosa fare. Io però penso che oggi, la giornata di oggi, sia stata molto chiara nel dire cosa non faremo. Che cosa non farete? Non saremo una costola del PDL, non saremo, diciamo, un soggetto minoritario e piccolino, diversamente berlusconiano. In questo senso le parole di Mario Monti sono state molto chiare, e in quelle parole si riconoscono gli elettori e i parlamentari di Scelta Civica nella loro grandissima maggioranza, perché vede, lei prima citava la lettera degli 11 senatori, io sono convinto che molti di quegli 11 colleghi abbiano firmato quella lettera sottovalutando le conseguenze e certamente non hanno intenzione di seguire questo o quell'altro in un'avventura, come l'ha definita oggi Monti, polverosa e vecchia, come sarebbe certamente il partitino affiliato al PDL. Ma quindi non sarete una serie di cose, onorevole Romano, ma quanti sarete? Quanti? Ma intanto saremo la maggioranza, perché non c'è dubbio sul fatto che la maggioranza dei parlamentari, ripeto, degli elettori, è convinta dell'autonomia di Scelta Civica rispetto a questa, come dire, questa avventura, ripeto, perché è un'avventura di vicinanza al PDL. Saremo un soggetto autonomo che continua a lavorare sui temi dell'agenda Monti e quelli di cui parliamo in questi giorni, che sono quelli della nostra critica alla legge di stabilità, ovvero un cuneo fiscale troppo limitato, una riduzione, una necessità di ridurre la pressione fiscale sul lavoro e sulle imprese, la necessità di ridurre e di abolire, se possibile, l'apartheid tra troppo tutelati e scarsamente tutelati. Sono tutti temi sui quali è nata Scelta Civica, non è nata da un progetto ideologico, ma dalla necessità di affrontare alcuni temi concreti che hanno a che fare con la crescita economica del paese. Quei temi sono ancora tutti sul tavolo, perché la critica alla legge di stabilità, che è stata oggetto, diciamo, della critica a sua volta di Mario Mauro, è una critica che viene condivisa da molti. Oggi ero stamani al convegno di Napoli dei giovani imprenditori, dei giovani di Confindustria, e l'ho ascoltato da Jacopo Morelli, che ha fatto un bellissimo discorso, e da molti altri, critica la legge di stabilità molto più radicale di quelle che ha fatto Mario Monti e che io condivido. Questa è una legge di stabilità che deve essere migliorata, dopodiché non è che noi le facciamo queste critiche perché vogliamo indebolire Letta o il governo, ma crediamo che sia necessaria una legge di stabilità più coraggiosa, che soprattutto sul tema delle tasse e della crescita faccia molto più di quanto è stato fatto. E su queste cose le piace Renzi, quello che dice Renzi, onorevole Romano? Guardi, Renzi ovviamente sta conducendo una partita congressuale che appartiene a un altro partito, e quindi staremo a vedere come farà. Io da tempo guardo con simpatia Matteo Renzi, non è un mistero, dopodiché vedremo che tipo di segretario farà, se sarà, che tipo di partito, come governerà questo Partito Democratico, poi valuteremo. Ma è chiaro che questa questione riguarda un partito che non è Scelta Civica e che, come dirà, deve prima di tutto risolvere anche i suoi problemi, perché ora parliamo giustamente dei problemi di Scelta Civica, ma non è che nel PDL e nel PD non ci siano tribolazioni meno traumatiche. Per chiudere, onorevole Romano, lei era d'accordo, non so se ha sentito prima Massimo Franco, che diceva due delle cause principali di quello che è successo a Scelta Civica sono una crisi di leadership di Mario Monti, e l'altra è il deludente risultato elettorale. Quindi questa cosa, queste due cose come le risolverete? Io ho sentito la riflessione molto acuta, come sempre, di Massimo Franco. Intanto non sono molto d'accordo con lui sul fatto che il berlusconismo sia finito, nel senso che certamente tutto cambia anche nella politica italiana, ma prima di dichiarare la fine del berlusconismo secondo me ci vorrà molto tempo, perché l'operazione a cui stiamo assistendo in questi giorni è un'operazione di ceto politico, cioè, come dire, tribolazioni che hanno a che fare con alcuni eletti, ma le ragioni del berlusconismo, le basi di consenso del berlusconismo, e le parla uno che non l'ha mai votato Berlusconi, pur non demonizzandolo, quelle basi di consenso sono nel paese, sono nel paese reale, quindi prima di archiviare il berlusconismo secondo me ci passerà del tempo. Dopodiché, risultato deludente, sono 3 milioni di italiani che ci hanno votato, il 10% per un'operazione nata in 2 mesi, senza avere, aggiungo, né i soldi, né le risorse, né la storia di altri partiti. È chiaro che questa è una realtà politica nuova, innovativa, che, come dire, che sta contribuendo anche a innovare la politica italiana. Poi è naturale, io avrei preferito io per primo avere un risultato del 25% piuttosto che del 10%, ma questo è naturale. Dopodiché ora si tratta di far valere le ragioni per le quali siamo in Parlamento e per le quali ci hanno votato tanti italiani, che sono, ripeto, le ragioni che sono alla base dell'agenda Monti, della necessità di dare più crescita e ridurre la pressione fiscale in questo paese. Allora, onorevole Andrea Romano, io le auguro e vi auguro buon lavoro e viva Livorno anche. Chiudiamo grazie, così. Grazie, va bene. Molto, grazie, buona serata. Ci sono gli aggiornamenti per chi viaggia e anche i vostri commenti sempre su Effetto Notte - Roberta Giordano. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Abbiamo appena finito di parlare con l'onorevole Andrea Romano di Scelta Civica, ci spiegava un po' quello che dal suo punto di vista sta succedendo, ma adesso, prima di riprendere con altri ospiti, vi ricordo i fatti principali di oggi. A cominciare dal Presidente del Consiglio Letta, che rispetto appunto a queste difficoltà all'interno della maggioranza ha rassicurato, ha detto: sono abituato all'instabilità e parlerò con Monti e parlerò anche con Fassina, che sapete minaccia le dimissioni. C'è poi l'appello di Napolitano, che difende la manovra e chiede ai giovani imprenditori uno sforzo comune, dice, per dare più fiducia al Paese. La legge di stabilità continua però a scontentare le parti sociali, tanto che la leader della CGIL Camusso annuncia: siamo pronti allo sciopero. Il calcio, all'Olimpico si gioca il big match Roma-Napoli, in tribuna Maradona, che intanto gioca la sua partita col fisco italiano, e per ora sentivamo che Roma-Napoli, la partita è 1-0. E passiamo al prossimo ospite. Prossimo ospite al quale vorrei affidare la parola della settimana. Intanto benvenuto Dino Pesole del Sole 24 Ore. Ciao Dino. Buonasera Roberta, eccomi. La parola della settimana, Dino, è default. Ne abbiamo sentito tantissimo parlare per gli Stati Uniti, è stata una rincorsa fino all'ultimo minuto, fino all'ultimo respiro. Per ora sembra che la paura sia un po' il rischio rientrato, però in realtà quello del default, cioè fallimento, non riguarda soltanto gli Stati Uniti, non è una paura che vivono soltanto loro in questo momento, no? Quindi traduciamo intanto la parola nel senso proprio economico-finanziario, Dino. Sì, tecnicamente si parla di default, vale a dire di fallimento, quando uno Stato non è più in grado di ripagare i propri debiti e quindi di fare fronte alle proprie occorrenze finanziarie, vale a dire far funzionare gli uffici pubblici, far pagare le imposte e dunque il normale funzionamento di un paese. Mm. Questo avviene perché, cioè il rischio, perché per ora per fortuna noi dobbiamo parlare di rischio di default, perché il default c'è stato per quanto riguarda l'Argentina un po' di anni fa, quello è stato un default vero. Per fortuna in Europa si è rischiato il default, ma l'intervento congiunto della Troica ha impedito che alcuni paesi, tra cui la Grecia ad esempio, ma anche l'Irlanda, anche il Portogallo hanno avuto problemi seri, finissero in questa situazione di non capacità più di far fronte ai propri debiti. Mm. Allora, in una situazione ovviamente di economie integrate, se in Europa un paese va in default, il problema non riguarda più quel paese solo, ma riguarda l'intera area. Ecco perché noi nel 2011, e qui veniamo a casa nostra, quando nel settembre, ottobre, novembre, quando il presidente Napolitano chiamò Monti al capezzale del malato, eravamo sostanzialmente in rischio anche noi di default, perché in realtà in quel periodo noi eravamo costretti a collocare, questo è il punto fondamentale, si rischia il default quando un paese deve emettere i propri titoli, quindi finanziare il proprio debito a un livello troppo alto. Questo livello rischia di essere insostenibile, soprattutto per un paese che ha un alto debito pubblico. Certo. Ecco perché si rischia. E noi abbiamo avuto bisogno di fare una manovra correttiva, c'è stato bisogno di un intervento anche a difesa dell'euro molto importante da parte di Mario Draghi, ci sono state le iniziative congiunte assunte a livello europeo e a livello internazionale per far sì che alcuni focolai sparsi per l'Europa si potessero non ci fosse l'effetto domino. E l'effetto negli Stati Uniti è diverso, perché negli Stati Uniti in questo periodo si è determinato un effetto congiunto, quello che si è chiamato lo shutdown. In realtà non è propriamente il default, ma una specie di collasso, possiamo chiamarlo così, un collasso finanziario. Se repubblicani e democratici non avessero raggiunto trovato un accordo, il rischio era ben maggiore. Di fatto non ci sarebbero state le risorse per far funzionare gli uffici pubblici. Chiarissimo. Chiarissimo. È una questione che ha a che fare anche col default, perché in effetti i repubblicani americani e i democratici sono stati costretti a accordarsi per aumentare il tetto del debito. E meno male che per il momento, almeno temporaneamente, fino a gennaio-febbraio dovrebbero tenere. Grazie Dino Pesole. Grazie, buona serata. Buona serata. Ciao Dino. Adesso invece parliamo di self-publishing, cioè di questa nuova tendenza, che in realtà già in atto da un po' di tempo, di pubblicarsi da soli i libri, le cose che si scrivono, no? Tutti in Italia sono tutti scrittori, quindi c'è questa tendenza non solo in Italia ma un po' nel mondo. Ne voglio parlare con Antonio Tombolini. Buonasera Tombolini. Buonasera Roberta, buonasera a tutti. Antonio Tombolini è amministratore delegato di un'azienda che si chiama la Simplicissimus Book Farm, che offre appunto servizi per l'editoria digitale, e soprattutto è organizzatore del primo festival di self-publishing, che si chiama International Self-Publishing Festival, che si tiene a Senigallia, nelle Marche, domani e dopodomani. Che cosa dire, Tombolini, di questo evento e delle persone che sono interessate a questa cosa? Ma io vorrei dire che innanzitutto si tratta appunto di un festival, di una celebrazione di un fatto che sta accadendo e che è nuovo solo in parte, perché da sempre molti si pubblicano da soli i libri, ma c'è una novità radicale, che con la crescente importanza del digitale e quindi degli ebook, a questo punto gli autori indipendenti hanno la possibilità di accedere attraverso la distribuzione digitale alle stesse librerie online, competendo con i libri degli autori pubblicati dagli editori tradizionali. Questo sta cambiando radicalmente le regole del gioco dell'editoria libraria. Ci sono molti autori indipendenti che vogliono fare sul serio e che cominciano a porsi il problema di come fare gli editori di se stessi. Quindi questo però potrebbe, non credo, potrebbe mandare in crisi le case editrici tradizionali, oppure semplicemente si adegueranno o ritengono di avere però un canale più forte, più ambito? Sì, questo in realtà è un aspetto che dipende molto dall'atteggiamento che gli editori tradizionali decidono di avere nei confronti del self-publishing. Può essere la loro, in qualche modo, dannazione, tra virgolette, ma può essere, come già sta avvenendo in alcuni casi, perfino qui in Italia, una possibilità, come noi abbiamo ribattezzato per l'occasione durante l'evento il self-publishing, di rinascimento dell'editoria. Un esempio per tutti: in Italia c'è un editore che si chiama Newton Compton, che attingendo al serbatoio di talenti che il self-publishing pure rappresenta, ha pescato un'autrice che poi quest'anno ha vinto il premio Bancarella. Questo potrebbe essere un caso eclatante che fa scalpore, ma in realtà è solo il sintomo e la punta dell'iceberg di un fenomeno molto molto più vasto. Allora, quindi appuntamento per tutti gli appassionati o per i curiosi o per chi è addetto ai lavori, domani e dopodomani a Senigallia, 19-20 ottobre, Antonio Tombolini. Esattamente, il tutto si svolgerà in una piazza magnifica che è il Foro Annonario di Senigallia, in una cornice di mercato vero e proprio tra autori indipendenti e professionisti dell'editoria che propongono i loro servizi agli autori, ma anche con un fil rouge di spettacolo fatto di reading, di poesia, di musica, anche di musica indipendente, con una punta che è un'ora in cui Alessandro Bergonzoni, che di parole, testi è maestro, incontrerà quelli che interverranno a questo festival. Buon evento allora, grazie Antonio Tombolini. Grazie a voi, buonasera a tutti. Grazie, ciao. E prima di sentire il colonnello Giuliacci tra pochissimo, volevo leggere alcune dei vostri commenti sulla pagina Facebook a proposito la pagina Facebook di Effetto Note trattino Roberta Giordano sull'implosione dei partiti. Luca diceva appunto moriremo democristiani, mentre Domenico scrive probabilmente dovrebbero ripristinare le correnti di partito per sopravvivere. Marco scrive si tratta di un normale andamento della curva dei sistemi emergenti, non implodono in realtà, si stanno riconfigurando per essere più forti, questa è la sua teoria. Il processo innaturale è quello del Movimento 5 Stelle che è statico, ci sarebbero alcune mosse che la natura ci insegna, scrive Marco, che si potrebbero mettere in atto, fondare un M56 adesso dice avrebbe senso, insomma una teoria piuttosto originale. E poi invece Massimo scrive succede che si avvicina il giorno del finale, ma in realtà quelli che sperano che Berlusconi prima o poi insomma sia finito dice vedranno, chi pensa di avvantaggiarsi della sua dipartita politica scoprirà quanti democristiani ci sono nel PD e anche in Scelta Civica. Adesso i nostri due ultimi minuti con il colonnello Mario Giuliacci. Colonnello, ci conforti? Sì, buonasera. Innanzitutto, cara Roberta, sì. Ai, mi dai poco tempo per parlare molto del tempo. Vabbè, a parte questo, domani, diciamo, dopodomani sarà tempo bello su tutto il centro-sud e con temperature gradevoli. Non sarà così per il nord Italia perché già domani l'avanguardia di una nuova perturbazione porterà nuvole sulle regioni di nord-ovest e nuvole che poi nella giornata di domenica si trasformeranno in pioggia. Pioggia nella mattina di domenica sulle regioni di nord-ovest e Toscana, nel pomeriggio piogge su tutto il nord Toscana, piogge che insisteranno anche nella sera e nella notte tra domenica e lunedì. Vi è da aggiungere, attenzione, nel pomeriggio di domenica le piogge potranno essere forti sulla riviera di Levante. Caro colonnello, quindi insomma, però le temperature ancora abbastanza decenti, mi sembra. No, temperature giustamente non gradevole. Ne ho parlato perché pensavo di essere fuori tempo. Temperature gradevole, senz'altro al centro-sud, con valori tra 20 e 23 al centro, 23-26 addirittura al sud. Sulle regioni di nord-ovest saranno. Ci saranno invece temperature intorno a 15-17 gradi, un po' fresco, ma questo nella giornata, limitatamente alla giornata di domenica. Di domenica. Il resto su meteogiuliacci.it. Grazie colonnello Giuliacci, prossimo venerdì magari un po' più di spazio. Grazie, quando comincia Roberta, a scendere la neve. Sera, ciao colonnello, noi ci sentiamo tra pochissimo.